Sono qui, guardami. Prima che il tempo mi porti via, tienimi stretto, prima che il vento cancelli le mie orme. Dal tuo sguardo mi mandi continuare? Dammi un senso per la fatica, per il dolore. Alla fine cosa importa? Cosa resta della vita? Starò fermo ad aspettare sia finita. Poi mi alzo e inizio a camminare. Senza chiedermi perché. Il vuoto non mi fa più paura, neanche il vuoto dentro me.